per sempre, decio così, per sempre amaro il pianto, deve il volto bagnarti, ed il suo fonte conoscer non potrò. D'esser tua figlia, indegna son, ciò basti. Figlia. Se qual tu dici, figlia ti son, che più ritardi, snuda quel ferro, in me l'immergi, e così sono, sarai giusto che le venti, perché sarò pulita. Inonda questo tolta sarò, crudo morir presente. Parla dunque, discuopri. Lasciami, genitor, che girne deggio. Dove? A morir. Perché? L'onor. Dove siegui? Quel. Sì. Che mi rende. Non arrestar. Mia mente agitata. Più non mi ricedir. Son disperata.